E grazie di essere qui, anche grazie a questa stupenda serata piovosa che ieri dava primavera, oggi dà inverno. In effetti non sappiamo bene come comportarci, però grazie di essere qui e grazie alla di essere qui alla presentazione insieme a Stefano Colangelo, che è il pezzo da 90 della situazione. Lui è da 89, Poi. in realtà per cui è soltanto cosa del genere. E nella presentazione di Oggettistica, che è per adesso l'ultimo libro pubblicato di Marco Giovenale. E è un libro che direttamente si apre su, anzi si chiude, perché è una postfazione, comunque una nota finale, su un'affermazione in merito a quello che si trova nel libro, ovvero questo libro non è un libro di poesia. In realtà, vedendolo a volte, ma anche questo è stato scritto nella nota finale, vedendolo di passaggio in alcuni testi, la poesia potrebbe anche centrare, almeno per questo falso inciampo, che è l'andare a capo. In alcuni testi la capo c'è, è presente, soprattutto in alcuni microtesti. E questo già mi porta a raccontare che nel libro, raccontare, giustamente, essendo pezzi, diciamo, di prosa più che di narrazione pura, a raccontare che il libro è composto in maniera composita, nel senso ci sono micro narrazioni, micro prose che si aggirano intorno all'una, due pagine, e al massimo mi pare che ce ne siano soltanto due che sforino estremamente, cioè vadano intorno alle 8-10 pagine. Quindi comunque un libro che ha un'apertura enorme. Quello che mi colpisce da un po' di tempo a questa parte, direi da almeno, insomma, dalle pubblicazioni degli ultimi 5, anche precedenti anni di Marco, e la capacità quando approccia la poesia, ma quando anche approccia la prosa. Io onestamente faccio estrema fatica a livello, diciamo così, di uomo della strada a separare le due anime di Marco. E soprattutto per questi motivi, per un motivo soprattutto, anzi, che è quello legato a un atteggiamento, a un approccio che a mio avviso Marco ha nel testo negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, musicale, un approccio che è non istintuale, o almeno non apparentemente, ma proviene da qualcosa che è estremamente pensata. È un approccio al testo, soprattutto qui, per esempio, lo trovate nell'idea della ripetizione. È molto pieno di ripetizione questo libro, ma è giocato proprio su quello, una parte ritmica estremamente forte, un'estremamente puntuta, se posso definirla così, che mi riporta alla costruzione di una certa scuola minimalista americana, non di scrittura, ma proprio musicale, quindi vari Reich, eccetera, eccetera. Ma non soltanto, all'interno di questo libro troverete qualcosa che Marco sta sperimentando, secondo me, da molto tempo, e che fa parte anche di una corrente di musica elettronica, ovvero il glitch, l'errore. L'errore che viene assorbito all'interno del testo, diventa testo a sua volta, e nell'errore stesso crea movimento. Di nuovo movimento, ritmo, quindi c'è questa parte che nei testi di Marco per me è estremamente preponderante. Quale rischio corre dentro di me, per me, non il libro in sé, ma quello che ha come effetto su di me, è che la lettura lascia da parte l'anima razionale, ovvero che cosa sta dicendo il libro per entrare dentro questo loop, o questi loop che sono loop generativi comunque, perché a loro volta, anche se io non riesco a percepire il senso in superficie, questa cosa avviene. Mi avviene successivamente, proprio dentro questa costante ripetitività o questo costante ritmo, più che ripetitività, che io trovo dentro i testi. Oggettistica è un libro che accentua, secondo me, proprio questa parte ritmica, questo lavoro di quasi dervisciano per quanto riguarda l'approccio che almeno io sento sul testo, che mi permette quindi di staccarmi dal contingente. Un contingente che è estremamente forte, perché è un contingente che non si basa soltanto sulla tecnicalità della scrittura, la capacità. Marco è una persona estremamente accorta, non è un, come dire, non è un autore che si accontenta della casualità. La casualità diventa per lui elemento interno, pensato, ragionato. E quindi a questo punto può essere duplicato, replicato, riproposto, spostato, rimaneggiato. Maneggiato e rimaneggiato. E mi sono perso perché stavo elucubrando questo pensiero. Mi ritrovo nell'idea che proprio Marco abbia poi dentro questo, quello che provoca me, abbia messo in Oggettistica, ma anche in altri suoi libri, una enorme potenzialità critica attraverso poi forme che sono, li conosciamo tutti nella poesia contemporanea, quelle dell'ironia, ma non soltanto dell'ironia, di un atteggiamento di distanziamento e di raffreddamento verso il testo, che in questo caso è tipico, secondo me, proviene e viene mutuato da quello che è molta forma narrativa che abbiamo conosciuto da metà del Novecento ai giorni nostri, più che nelle avanguardie, negli sperimentalismi di fine Ottocento e inizio Novecento. E io ho trovato Oggettistica un libro che mi parla politicamente, senza dover essere per forza schierato, ma ci parla di una società, ci parla di una... qualcuno l'ha scritto anche meglio, Oggettistica, perché dentro questo libro è un catalogo, un tutto dentro di oggetti, gli oggetti che fanno parte della nostra vita, ma non sono gli oggetti bartesianamente indicati, cioè, quindi non si parla in maniera stretta soltanto della lavatrice, tanto per dirci, e si racconta di quello che realmente sono questi oggetti o cosa è invece l'impoverimento che ci raccontano gli oggetti che noi abbiamo, che noi accumuliamo e che noi viviamo costantemente. E quindi cos'è l'impoverimento della nostra società? In questo io intendo il libro come un elemento politico. E oltretutto, ribadisco, a mio avviso la scrittura di Marco da Adamo, che è una scrittura che ha moltissimo a che fare, a secondo poi del libro che lui decide di scrivere e di pubblicare in quel momento, moltissimo a che fare con una visione della società contemporanea che esula dal semplice essere una visione della società artistica degli scrittori contemporanea. E mi fermerei qui, forse non dite anche troppe di stronzate, scusate. Ci mancherebbe, anzi, grazie. Poi, io lascio faccio la parola direttamente al pezzo da 90. No, ok, ma guarda, allora sta cosa del 90 bisogna un po'... Va bene, ok, ne ho vabbè, però diciamo adesso, vabbè, i veri pezzi del 90 sono... ci osservano dall'alto senza che noi lo sappiamo. Sì, vabbè, gli scaffali sì, ma dietro gli scaffali ci sono degli altri, sì. Incombono? No, in realtà sì, in pratica devo dire, come si dice, di solito si dice, ha detto cose che avrei detto anch'io, perché effettivamente no, infatti è vero, però questo mi fa molto piacere, perché in realtà nel mio essere pezzo da 90 sono anche ormai un pezzo d'antiquariato, quindi io non sono più neanche in grado di, cioè secondo me non ho nemmeno il retroterra giusto, non avrei il retroterra giusto per leggere delle cose come quelle di Marco Giovenale. Però poi alla fine te ne accorgi mentre lo leggi che in realtà è vero, un libro che parla politicamente e intanto è un libro che parla, cioè che ti parla, perché comunque in questo avvicendarsi non solo di oggetti ma anche di processi di utilizzo degli oggetti o di come gli oggetti utilizzano noi spesso. E c'è sempre qualcosa in cui ti ritrovi, no? ti ritrovi dentro la pagina, magari pensando che hai fatto esattamente quell'operazione che lui sta descrivendo in quel momento, mettendola in contesto con tante altre che apparentemente non c'entrano, ma che in realtà finiscono per fotografarti, per riprenderti con una specie di videocamera lo stesso processo, quindi ti senti nel processo. Questo, è vero che questo non ha a che fare con le avanguardie storiche, però è anche vero, e questo, su questo sono assolutamente d'accordo, però la cosa curiosa è che quando deve essere stato un paio di anni fa, abbiamo fatto un corso triennale, quindi con parecchi studenti, molti di lettere, alcuni di storia, alcuni di comunicazione, intitolato Attenti alle avanguardie, punto esclamativo, forse non c'era il punto esclamativo, non mi ricordo, sì, forse c'era, sì, attenti alle avanguardie. E partivano chiaramente dal futurismo, venivano giù e si arrivava fino alla contemporaneità. Il sottotitolo del corso era, insomma, eredità e superamenti delle avanguardie, insomma, nel senso, no, non tutto doveva essere riferito alle avanguardie, ma a un certo punto doveva esserci un superamento dell'idea di avanguardia. Noi siamo partiti sempre dal fatto che l'avanguardia fosse una costante del Novecento, ma che a un certo punto, poi nei primi due decenni del 2000, andasse ridiscussa, no? L'ultimo libro in programma era Statue linee di Marco Giovenale, di cui abbiamo letto qualche testo, pochi, perché io arrivo all'ultimo momento, per cui insomma non abbiamo potuto dare un quadro esauriente del libro. E Statue linee era, come tu stesso mi scrivesti, ma dopo, in realtà non lo sapevo allora, ma poi me l'hai scritto dopo, era un altro passo verso oggettistica. Quindi i nostri studenti la cosa che abbiamo fatto è stata accentuare dove i processi descritti e messi in pagina da Marco potessero essere dei superamenti di quelli che avevamo visto esercitarsi tra il futurismo, certe cose di Balestrini, e anche qualcosa del gruppo 93 che arrivava fino a noi, e quindi Tommaso Tonieri, Gabriele Frasca e così via. Però c'erano più differenze che somiglianze, cioè c'erano più discontinuità che continuità, e questo proprio nella percezione di persone che non avevano mai letto le tue cose, alle quali, insomma, io ho semplicemente detto: guardate, lui è un autore che scrive su questi siti, su questi blog, è un autore che scrive dai primi anni 2000. E un'altra cosa che poi vorrei anche rilanciare come domanda, siccome noi pensavamo sempre, ma un autore che scrive oggi deve in qualche modo sovvertire certi schemi e deve richiamarsi anche, volendo, a una certa tradizione, no? Allora, tu hai curato, questa è una cosa bella da dire a Bologna, hai curato una antologia di Roberto Roversi, no? E la che, insomma, uno direbbe: ma Roberto Roversi, insomma, se lo leggi sembra molto diverso dalle cose che scrivi tu, no? Cioè, però, con quello che ha detto Sergio, a questo punto possiamo anche fare un po', cioè possiamo anche provare a dire che alla fine un porre la scrittura in questo modo è un porla in senso politico. Cioè, appunto, per mostrare dei processi, mostrare delle processualità, insomma, nelle quali siamo coinvolti tutti, e quindi alla fine tutte queste pagine, che sono tra l'altro divertentissime, alcune sono proprio veramente divertenti, cioè dici: ma come gli è venuto in mente scrivere una cosa del genere? Lo dico proprio da lettore così di primo acchito, insomma. E poi magari ci leggi qualcosa. Forse hanno a che fare un po' anche con questo espandersi del testo, che in Roversi Sergio forse lo sa meglio di me, era molto nelle sue corde, cioè l'idea di uscire dalla convenzione della pagina, di uscire da dove si poteva, insomma, di forzare le porte, di forzare i limiti, di fare sì che alla fine ci fosse un testo che ti parlava da dietro, da sotto, dall'alto, senza che tu potessi ricondurlo e schiacciarlo nella convenzione del libro, che poi diventa convenzione autoriale, che poi diventa convenzione accademica, oppure la convenzione che tu descrivi in questa cosa fantastica che sono le presentazioni di scrittori a scrittori, no? E che dopo, se ce la leggi, mi fa un favore, così. Quello è un esempio, per esempio, di come tutti ci sentiamo un po' coinvolti in questa scrittura senza saperlo. Cioè, è come se lui ci avesse fatto il giro intorno e ci avesse sorpreso in una situazione. E quindi forse questo un po', insomma, me l'ero chiesto. Poi chiaramente sappiamo, insomma, che Marco è uno scrittore, diciamo, che usa e discute anche i social media, la loro funzione, i loro segreti e le loro bugie, appunto, bisognerebbe dire. E forse anche nell'attività culturale che lui porta avanti giorno per giorno ci sono anche molti riferimenti a questo libro, cioè anche non sapendo che cosa fa lui intorno al libro, in realtà anche da questo libro si può ricavare in modo centrifugo un certo atteggiamento critico molto, molto forte, a volte sarcastico, secondo me, anche se detto in modo sempre molto così, con grande tatto, insomma, senza salire mai sopra le righe, però il sarcasmo vero è anche quello, insomma, è sarcasmo positivo, no? Diciamo. E quindi ci sono tutti questi aspetti, insomma, sono tutti questi aspetti che a me piacciono molto della scrittura di Marco da tanto tempo e sui quali mi piace sempre vedere le cose che fa, perché sono sempre originali, ma nel senso proprio cioè riesce sempre a prendere una cosa a fotografare qualcosa che era sotto gli occhi ma che in realtà nessuno aveva messo in quel modo. E poi c'è tutta la parte, diciamo, relativa all'attività, possiamo dire, di traduzione e di interscambio di Marco con realtà culturali che sarebbero lontanissime da noi se lui, poi Michele Zaffarano e anche Mariangela Guatri, che è qui, insomma, molti altri non ci avessero, insomma, non ce ne avessero parlato e non avessero dialogato con loro. E quindi noi abbiamo cercato di metterti in rapporto un po' con una genealogia molto verticale che parte molto da lontano, che alla fine non era una genealogia, era, insomma, un modo per confrontarsi con le avanguardie. Però c'è anche una genealogia orizzontale, un paesaggio orizzontale che va molto al di là del contesto italiano, del quale magari, se ci vuoi accennare così, butto lì delle cose, ma tu sai già cosa dire, sai già come dirlo, e quindi anch'io mi taccio e ti lascio la parola, poi ci leggi qualcosa. Non so, vedi tu, poi noi ogni tanto ti interrompiamo. Allora, grazie alla libreria che ci ospita, Modo, dove non venivo da un po' di tempo, forse da prima del Covid, e grazie a Sergio e Stefano che mi presentano e a voi che ascoltate. Io volevo leggere una cosa, però prima mi faceva molto piacere rispondere alla domanda su Roversi, che è una persona, un autore e una persona, appunto, entrambe le cose, molto cara per me. Io credo uno dei primi testi in prosa miei pubblicati uscì su Rendiconti nel 1997, l'ultimo numero di Rendiconti, perché poi Roversi aveva allestito anche un numero successivo che però non andò mai in stampa. E quindi c'era un titolo un po' strano anche lì, mescolando un tedesco che non parlo con l'italiano, La Welt addomesticata, ed era una prosa abbastanza delirante, in realtà ancora troppo poco ironica per confrontarsi con quello che avrei scritto in seguito, però diciamo che la mia deriva problematica o problematizzante sul versante della prosa forse la devo anche un po' a lui, almeno al suo ascolto, quello sicuramente. E poi quando verso la metà del primo decennio degli anni 2000, adesso non ricordo esattamente la data esatta, Luca Sossella mi ha chiesto di fare questa antologia, io sono stato felicissimo perché mi ero laureato su Roversi, anche se, diciamo, avevo affrontato sia la parte poetica sia la parte del romanzo, ma non quella delle collaborazioni con Dalla, per esempio. E quindi è stato un po' gioco forza ripercorrere anche alcune cose che avevo letto, amato e particolarmente anche, come dire, ritradotto in un altro linguaggio che era poi magari il mio, nel Roversi, soprattutto, questo lo dico, delle descrizioni in atto, quindi il Roversi del 1969, che è anche è il Roversi che fonda o, diciamo, fa sua una prassi, che era anche la prassi del volantinaggio, cioè sostanzialmente le descrizioni in atto per lui che aveva pubblicato con Feltrinelli, Einaudi, Rizzoli e Mondadori, è un modo, con le descrizioni in atto, con questo ciclo stilato, è un modo per andare direttamente ai lettori senza passare per il mondo della distribuzione, che già allora era quella che noi possiamo chiamare una distribuzione generalista, anche se con tantissime qualità che poi nei decenni successivi si sono perse. E quindi in qualche maniera era una, ma qui a Bologna si sa, e lo si sa benissimo, diciamo un intellettuale a tutto tondo, a 360 gradi, sul fronte di una eticità profonda, sul fronte di una sincerità anche nell'ascolto delle generazioni più giovani, dell'indirizzarle verso quelle che erano le loro linee di sviluppo. E proprio anche in un modo interessante dal punto di vista quasi rivoluzionario, dal punto di vista appunto della distribuzione dell'oggetto letterario. E con la sua rivista, chiaramente, il titolo stesso Rendiconti lo sappiamo benissimo, ma non soltanto con quella, ma comunque con la sua prassi quotidiana e con una quantità anche di azioni, era anche un riferimento dal punto di vista politico, di una politica della cultura. Adesso non che io debba sentirmi dall'alto della figura di Roversi investito di qualcosa, però sicuramente questa linea ha avuto le sue, no, ramificazioni anche in termini di scrittura, di testualità e di prassi quotidiana con i vari blog e siti che seguo. Ma questo per dire appunto che la gratitudine verso di lui va molto al di là di quella che normalmente è l'eredità che si continua a trasmettere di generazione in generazione negli ultimi 50-60 anni, ossia l'eredità del conflitto Pasolini-Sanguinetti, ossia Officina 1957, numero di giugno, numero di novembre, numero di giugno Pasolini che fa la sua antologia dei neosperimentali e poi ne prende le distanze avvocando a sé il ruolo del vero sperimentatore. Novembre 1957 Sanguinetti gli risponde con una polemica in prosa che in realtà è una serie di terzine incatenate dantesche, anche se Leonetti dirà che in realtà sono insomma delle stringhe di 11 sillabi, non sono veri e propri endecasillabi, lo dirà nel numero successivo di Officina, e dove appunto risponde per le rime a un Pasolini un po' troppo invadente e francamente un po' poco in sintonia con quello che si faceva in quegli anni, soprattutto da parte di Sanguinetti, ma anche di lo stesso Balestrini, ma in generale insomma su un altro fronte che poi appunto avrebbe fatto altre cose. Ecco, questa divaricazione, questo bivio che dal 1957 continua a riproporsi, per cui ogni calendario letterario di tutti gli anni c'è sempre scritto 1957 in cima, perché ci sono sempre queste due. Io ho cercato sempre di non ereditarlo, prendendo quello che per amicizia, per simpatia, per stima, per prassi comune letterarie mi veniva da Nanni Balestrini e quello che mi veniva per tutto quello che ho detto prima, eticità, esempio nelle prassi di diffusione dell'affatto letterario e della lettura delle diverse testualità da Roversi. Ecco, quindi diciamo che forse, ecco, no, Roversi è uno dei luoghi dove bisogna sempre tornare, come lettori c'è sempre qualcosa da imparare, quindi ecco, curare questa antologia è stato importante anche in quel senso. Nell'antologia ci sono anche dei testi critici di Roversi, quindi, per esempio i suoi importantissimi testi sui Vociani, insomma ci sono tanti materiali, anche se non è non è esaustiva, per esempio manca tutto il lungo gigantesco poema L'Italia sepolta sotto la neve, è impossibile, però c'è robertoroversi.it dove andate e trovate sostanzialmente tutto nello spirito di Roversi, che appunto voleva che tutto fosse disponibile il più possibile gratuitamente, anche se poi c'è anche il libro cartaceo a cui tutti noi siamo interessati. E adesso io prendo il libro cartaceo che in qualche maniera deve moltissimo a una non eredità dei due, e dei tre, dei quattro, dei cinque autori che dal 1957 vengono invece in Italia, vengono tirati per la giacchetta da una parte o dall'altra, e leggo appunto da Oggettistica intanto l'epigrafe, che dice così: Your people I do not understand, ed è la vostra gente io non la capisco, ed è di Jimi Hendrix, da una canzone che è Third Stone from the Sun, cioè terza pietra a partire dal sole, che saremo noi la terra, no?

canto, la processione, il carretto che scricchiola, le dame con le candele che gocciano, il giallo della traccia, la colla, il vestito stretto, se è stretto, della maschera, la sua torcia allontanata, allontanandosi allo stesso modo in un modo diverso, divaricato, innaturale, scaleno, minaccioso, che dà paura, paura di aver detto troppo in udienza, in assenza di avvocato, protezioni di lamiere, lamierini, tettucci, scalinate, scritte, scrivendo che hai paura dei terremoti, della scogliera che si avvicina fracassando lo scafo, sapendo di non saper nuotare, paura quindi del mare, dell'acqua salata dell'aeroporto, non di volare ma di separarsi da terra, di farsi fotografare, di drogarsi, di parlare italiano, di agglutinare le parole, non avere più la lingua, avere troppe scarpe, pochi piedi, ma tua paura principale, fobia della pioggia, dei ragni, della pioggia, dei ragni, paura di sbagliare, riportare il discorso come il cane riporta lo stecco, paura dello stecco, del ringhio, dei canini, dei delfini, dei postini, dei destini, dei morigerati, degli sconci, di vagare nel senso di errare, sbagliare indirizzo, luogo, essere fuori luogo, fuori zona per poco ma irrimediabilmente, che attraverso il tempo non si possa vedere, in effetti non si vede mai chiaro, almeno in un primo momento, quasi poi non si sa, addirittura meno chiaro, quasi buio, con delle luci accecanti, ma sono passate cose così, passate, innocue alla fine. Adesso mi riposo, faccio parlare. No, vabbè. Allora, questo era in parte quello che avevo accennato all'inizio. Dentro il libro, in oggettistica, troverete un uso, posso dire, sfrenato. Sfrenato della... Sfreniamoci. Un uso sfrenato di quello che è l'elencazione, la catalogazione, ma una catalogazione che non è mai ordinata, è sempre per grumi, per agglutinazioni. E da grumo si passa a grumo, si riesce a passare perché comunque c'è il filo stesso dell'intuizione di qualcosa che ci porta da un'altra parte, ma non tanto da un'altra parte, anche se in realtà è così. C'è un movimento comunque che è fatto dalla stessa parola. Quasi qua la cosa bella di Marco, soprattutto nelle prose, anzi solo nelle prose, adesso faccio la cosa stupida, cattiva, solo nelle prose, perché le poesie in effetti sono cosa differente in Marco, soprattutto nelle prose, è questa capacità di spostare, cioè proprio noi ci muoviamo, ed è invece secondo me una delle cose più belle che potrebbe accadere in poesia. Questa è la cosa bella secondo me, cioè queste sono prose, Marco le definisce come tali, e nello stesso tempo in realtà dentro ci mette qualcosa che in realtà sarebbe il sale della poesia, questa capacità di spostare il ragionamento, proprio di muoverlo, di portarlo da un'altra parte, che può essere un'altra parte ironica, un'altra parte in realtà abbastanza drammatica. C'è un testo all'inizio che io ho riletto più volte, che si intitola Verticale, prende il quarto o il quinto dei testi che ci sono lì dentro, e mi colpisce molto perché quel testo lì è un testo estremamente, in realtà invece, non ironico, ma secondo me è un testo orrorifico, è l'idea del mangiare, più che noi mangiamo, veniamo mangiati, ma certo, sì, se... cerchiamo Marco Giovenale, bellissima, è la parte più bella, l'ho fatto apposta, tolto quello che hanno detto loro. Esatto. E qui c'è l'altra cosa che secondo me in questo libro, e non l'ho detto, non l'ho intuito io, cioè io l'ho visto ma poi l'ho trovato già scritto, quindi qualcuno l'aveva intuito prima di me, e del fatto che Marco tenti e riesca in moltissime di queste prose un passaggio che è quello del assumere in qualche modo, e praticamente sempre, il punto di vista non tanto dell'io narrante umano, ma dell'io narrante oggetto. Qualcosa del genere. Verticale, ti spiego anche perché, adesso lo spiega lui, ve lo spiego anche. Verticale per me dentro ha la base, i semi di Verticale sono in un racconto di Richard Matheson del 54, che si intitola Su dai canali. Praticamente è la storia di questo ragazzo che entra in casa e vede qualcosa di orribile, viene registrato su un geloso, diciamo così, comunque un registratore di quelli a nastro magnetico. E praticamente ci sono i suoi due genitori che sono davanti alla televisione, lui vede che nella televisione c'è scritto mangiare, e a un certo punto, cioè, trova del liquido al posto dei genitori che sono seduti in poltrona, e alla fine la battuta è mangiato. Cioè, è un elemento orrorifico, Matheson era un genio per quanto riguarda la fantascienza, ma l'horror, eccetera, eccetera, non soltanto, anche il trattamento per esempio di Moby Dick, perché il Moby Dick di Houston ha dentro la sceneggiatura di Matheson, almeno una parte, e però dentro il testo che ho trovato c'è questo posizionamento ancora più estremo, ovvero non siamo noi che raccontiamo quello che è accaduto, ma è direttamente la posizione del soggetto oggetto che ci racconta quello che invece, non sempre, non del tutto, in alcuni testi a questo punto, che invece che accade, quello per cui lui è in funzione, lui funziona per quello. Fa estremamente paura e di nuovo ritorno a dire che per me è un'immagine che porta a capire la società sotto una lente critica. Poi io di Marco so che una volta era un appassionato di film horror, per cui non so se questa cosa gli è scappata da qualche parte. In realtà è un testo quanto più possibile ironico, giocoso, e però sicuramente Sergio ha colto anche le radici perverse della pagina, che a questo punto sono costretto a leggere se ritrovo gli occhiali. Ecco. Non ti ci sedere su, forse non dico. No, quelli sono quelli da lontano, ormai. Due. Verticale. È stata una situazione molto, e tutto nasce comunque da una situazione poco meno che orrorifica, che è quella della riunione di condominio. Verticale. È stata una situazione molto imbarazzante, con quelle 100-150 persone, quasi tutte ignote, ferme, che guardavano avanti come ignote, come ferme. In queste contingenze complesse, anche quando non siano imbarazzanti e forse nemmeno complesse, non si sa precisamente come comportarsi, che fare, neanche imprecisamente, come mettere in sequenza e in linguaggio tutte le contraddizioni sovrapposte che corrono a riempire tanto le frasi tra estranei o conoscenti o amici, quanto le percezioni singole, minime, le fosforescenze individuali, i piccoli pensieri. Il posto allora è pieno, le persone numerose. Non c'è modo di conoscerle tutte, tutti pensano a questo stesso limite, a chi conoscono, a chi non hanno mai visto e a coloro ai quali non saprebbero rivolgere parola. Si trovano a gremire un luogo e con quell'imbarazzo. Allora una soluzione è mangiarli. Come posso parlare loro, di loro, prima e meglio? Mangiarli, tutti e 150 quanti sono. È molto freddo e li vedi incappottati, la sala è stipata di cappotti, tubini di pelle, tailleur di pelo, giacche a vento, pantaloni pesanti, loden, li mangi tutti, con quello che coprono, li mangi con quello che contengono, siedono sulle sedie fredde di formica, mangi anche quelle, mangi loro dentro i cappotti, sulle sedie, quelli al finestrone con i chiavistelli, quelle e quelli che sono usciti a telefonare, a fumare, a mingere. Li mangi semplicemente con i sigari, le sigarette, le buste, i telefoni, gli ombrelli, senza ombrelli, i sessi, i cappelli, le cartelle con i protocolli condominiali, senza nemmeno sentire il sapore. Mangi con loro il loro imbarazzo, mangi le maglie, le obiezioni, quando si mettono a gesticolare tu mangi i gesti, se chiedono aiuto mangi l'aiuto, schiacci le vocali, le mastichi, le consonanti, così le loro strisce di assegni firmati, non firmati, visibili o che chiedono lenticole, mangi gli occhiali, le delicate carte sul tavolino, il delizioso tavolino, le sedie dette di prima, quelle che vengono aggiunte quando arrivano altri per sostituire quelli che sono stati mangiati inutilmente, inutilmente mangiati, inutilmente sostituiti, mangi gli sbuffi di noia che danno, li mangi tutti i taccuini blu e quelli magenta, le penne, le chiacchiere fra loro, le malevolenze, le radio e le tv, le chiose alle tv, gli odori, i figli che si portano dietro, che abbracciano e che alzano, o no, sono già nello stomaco, deglutiti con i maestri e i secchielli, le fontane, i burattini, il pomeriggio, sono nello stomaco con la stanza, il teatro, il drappeggio, un bel numero da buttare giù. Cognac ne va giù, non c'è niente che non vada, con il goccio o senza, tutto giù. Mangiato, lo stai mangiando. Che però potrebbe essere anche un testo programmatico di tutto quanto il tuo discorso. Non lo so, cioè. Senti, allora facciamo così, io ti commissiono, invece, ma facciamo fare avanti e indietro. Allora rimango in piedi. A questo punto sì, però con gli occhiali, mi raccomando, senza romperli, senza mangiarli. Ecco. No, ti commissionerei questo qua, insomma, dai. Periodo in cui, pagina 96. Perché, no vabbè, non dico niente, è come dire, anche questo un esempio di, ma non lo so, io cerco di fare, anche a lezione cercavamo di farci venire in mente delle formule per poter definire questi procedimenti, però è difficile perché poi ti sfuggono di mano, sembrano quasi dei modi di scivolare su una superficie che tu credevi essere, diciamo, calpestabile, e invece a un certo punto ti ritrovi che sei scivolato e sei da un'altra parte rispetto a quello che pensavi, a dove pensavi di essere. Poi per per quello che scrive Marco, almeno per questa fase, perché poi ci sono varie fasi della tua scrittura, non è detto che poi sia tutto così e tutto con queste stesse, con questi stessi criteri. Non so, a me era venuto in mente una volta l'idea che tu facessi entrare le parole dentro una specie di camera di stanza dove non c'è l'eco. Anche se in realtà in queste cose molto spesso gli echi ci sono, cioè una parola rimanda ad altre, si ramifica e in questo ramificare ti fa appunto scivolare. Non lo so, c'è stata una fase forse in cui scrivevi in quel modo, cioè togliendo il più possibile gli effetti di eco di ogni singola parola, quindi lasciando nude le evidenze delle frasi, però potrei anche essermi sbagliato. Adesso invece mi sembra, in questa ultima fase che va appunto da questa piccola trilogia, no? che è diventata poi oggettistica, mi sembra che invece è come se questo effetto di non eco fosse stato sostituito da qualcosa di più mobile, qualcosa di più che va a prendere, va a ghermire delle frasi fatte, le smonta, le stravolge e allo stesso tempo però ce le fa vedere come sono. Non riesco a trovare un aggettivo, una formula che possa semplificare questo. Forse non va neanche trovato, però insomma, vabbè, a questo punto ti chiederei di leggere quella sequenza lì. Come le chiami? Sequenze? Le chiami? No? Ma no, usando questa espressione di Jean-Marie Glaise, io continuo a considerarle anche quelle che vanno apparentemente a capo, prosa in prosa, e leggiamo appunto periodi in cui, che era già in un altro libro del 2016 che si intitolava Il paziente crede di essere. Perché a me succede questa cosa strana che in ogni libro riprendo uno o più testi in maniera da creare una sorta di aggancio a catena per considerarle tutto sommato in sequenza. Periodi in cui al calar della sera in città si organizzavano degli incontri culturali. Questi incontri recavano una incomprimibile gioia. Essa era il motivo disinteressato per cui venivano organizzati. Una gioia esplosiva o garbata, da ciascuno vissuta diversamente, ma che univa. Quasi tutti questi incontri, io ricordo, erano degli incontri di scrittura o di scrittori. Non venivano chiamati letture o incontri di lettura, questo perché non vi prendevano parte dei lettori, ma solo degli scrittori. Era una regola non scritta dagli scrittori e tuttavia ferrea. Il funzionamento o meccanismo che animava tali incontri era semplice. Sono in grado di spiegarlo. In sostanza, uno scrittore veniva presentato da uno scrittore, oppure da un critico o da un giornalista, che però, nel fondo del cuore, era innanzitutto uno scrittore, e tale veniva considerato per tacito accordo. E appunto funzionava così, ricordo, che uno scrittore presentava velocemente e brevemente uno scrittore agli scrittori, utilizzando parole efficaci. Una volta presentato dallo scrittore al pubblico degli scrittori, lo scrittore spesso sorrideva e sempre si avviava al tavolo o leggio accuratamente preparato per l'occasione. Da lì, dal tavolo o leggio, lo scrittore ringraziava, tutti applaudivano o forse avevano già applaudito e lo rifacevano, comunque spesso con allegria, e sorridevano a loro volta. Si trovavano a loro agio, era il motivo per cui si producevano in questi sorrisi. Era il motivo degli incontri, anche tutti desideriamo sentirci a nostro agio. Dalle efficaci parole dello scrittore presentatore, non di rado intessute di garbato umorismo, tutti erano stati ben disposti, benevoli verso lo scrittore presentato. Si percepiva una diffusa e condivisa affabilità, come un appetito o curiosità un poco languorosa e ottimista. Cosa mai andrà a leggere? Ne sentiremo delle belle? Ascoltiamo. La lettura aveva inizio. Essa costituiva l'incontro di scrittura. Approfittando del tempo che allo scrittore era necessario per organizzare i suoi fogli sul tavolo o sul leggio apposati o appositamente predisposto, tutti gli scrittori presenti in sala, chi per un motivo, chi per un altro, chi armeggiando al cellulare, chi avvertendo sete o bisogno, uscivano alla catichella dalla sala in penombra e la sala alla catichella si svuotava. Lo scrittore, rimasto solo soletto nella sala, dava 2 o 3 colpi col dito al microfono e iniziava a leggere con grande cura i propri testi. Poco prima della fine della lettura, tutti gli scrittori alla chetichella e un po' curvi rientravano nella penombra della sala, e la sala alla chetichella si ripopolava. Allora esplodeva l'applauso conclusivo che dava a tutti, appunto, come detto, una gioia febbrile e univa. Lo scrittore tornava a sedersi fra gli altri scrittori, felice per il suo quarto d'ora di solitudine. Toccava poi allo scrittore successivo, ripeteva. Non erano incontri assai frequentati, anzi, in genere in sala si contavano al massimo dell'affluenza, cioè nello spazio tra un autore e l'altro, 4 o 5 scrittori, 6 o 7 era già un numero di successo, baccanale e cuccagna. Per il resto erano incontri mediamente vuoti, non si sa perché, e tuttavia di grande importanza per qualche motivo, oltre al fatto di sentirsi, questo sì, a proprio agio. Essi, gli incontri, erano infatti parte della letteratura nazionale, e su di essi venivano scritte o riscritte le storie della letteratura nazionale. Alla fine di ognuno di questi incontri di scrittura, gli scrittori andavano a cena per parlare un po' fra loro, cementare o disfare accordi, e anche per capirsi e spiegarsi, dato che in sala a chi per un motivo, a chi per un altro, era sfuggito un tratto, un grammo di qualcosa. Durante la cena venivano disturbati da una chiamata o da un bisogno, dal chiasso del ristorante, per cui non si sentivano tanto bene, ma questo non impediva loro di esprimere ciascuno la propria opinione, scattare una fotografia. Era il bello di questi incontri, di scrittura o di scrittori. Poi ditemi come si può avere il coraggio di fare una presentazione quando poi leggi su un libro una sta cosa roba del genere, no? Dici, come fai adesso? Come me la cavo? Comunque, ecco, se non cerchiamo di essere... vabbè, insomma... Ne leggo un'altra. Dai, sì, certo. A proposito di scrittori. Andata e ritorno, sequenza degli intellettuali. Non so, poi forse con questa chiudiamo, perché questa non è proprio brevissima. Pagina 88, perché il libro... no, sono un po'... No, quella è quella sul romanzo. Andata e ritorno, sequenza degli intellettuali. Vimeo è molto pulito, Vimeo è molto più pulito. Anche se i crampi e l'intermittenza, ma queste sono cose del corpo che c'entra. Bisogna scommettere il giusto e sulla tecnica giusta. Un trucco è guardare i contorni, se non sfarfallano è meglio. Heidegger andava in Grecia, si sedeva composto, mangiava un panino, gli dava sicurezza. Si annuvola, mettono le plastiche sulle telecamere, rischierebbero altrimenti di bagnarsi, non è una buona idea, manderanno comunque in onda il servizio. È un servizio in diretta, è stato lungamente annunciato, piove, il servizio è già in odore di Pulitzer, il titolo del servizio, piove. Ah, quando c'era Pasolini, che rimpianto. Pasolini, gli intellettuali, Pasolini. Permangono degli intellettuali e si vedono, fanno dei film su Pasolini. Una soluzione come un'altra, una soluzione tira l'altra all'annoso problema che ogni stagione si ripresenta puntuale. Prendiamo un caffè, dicono, prendiamo un caffè con più slancio. Andiamo al caffè, prendono un'aranciata, 2 tranci di torta, lemon soda. Andiamo subito, così andiamo e grandi sorprese. Prendiamo un caffè negli anni 60. C'è Moravia, c'è Pasolini, entriamo nel vivo del dibattito, usiamo degli aggettivi, a volte terminano con istico. Entriamo nella, che dura di più, televisione, per criticarla da dentro. È per certo un intellettuale, è Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, gli vanno e vengono, come si vede, mettiamo che un pomeriggio, come riservando, come a fioco, uno abitava al 20 o di rimpetto al 19. Moravia ha una piccola rendita, nelle biografie Pasolini fa il film. Per fortuna gli anni 70, tuttora una sta, e insomma, uno sta attento a capire bene che una strada poi tutti, e ci passano un po' tutti, esistenta a capire. La situazione si è complicata dopo la tragica scomparsa degli intellettuali. Prima c'erano, poi improvvisamente... Allora la prima cosa che ebbero pensato tutti è stata: saranno scesi un momento, mo ritorna. Non ritornavano. Le persone erano molto preoccupate, erano complicate, delle situazioni senza interpretazione. Alcuni si domandavano come faremo, l'ascensore era fermo al piano, saranno andati a comprare latte, i cerini, tipo una tabaccheria aveva finito, cerchiamone un'altra. Adesso li rivedremo, manca molto, manca poco, eccoli. Invece no, anche chiamando i carabinieri ridevano sotto i baffi. Dove saranno finiti? Sono passati giorni, mesi, anni. Ormai tutti si sono abituati alla scomparsa, ma all'inizio è stato difficile. Si andava al lavoro la mattina con della angoscia. Che dire, che fare? Non si sapeva come sfilare i bulloni dai cerchi, aprire le scale, vendere il merluzzo. Era tutto bloccato, un'intera nazione allo sbando, quasi la guerra civile, facevano delle multe. Per fortuna esce Berlinguer nel televisore anche 2 mattine, 3, 5 minuti, dice state calmi, è tutto sotto controllo, andrà tutto bene. Alla fine degli anni 70 sono entrati tutti, poi non è entrato nessuno, non era vietato ma non entravano più. È un po' anche colpa degli intellettuali. Quando gli intellettuali hanno capito, sono andati in gruppo, prima in TV non c'era nessuno, 2, 3 presentatori al massimo 5, poi hanno capito che potevano andare e sono andati, prima la telecamera non li riusciva a prendere, all'improvviso sono entrati nell'inquadratura, all'improvviso non escono. Dove saranno? Dove saranno? Che disperazione. Guarda bene, un giorno gli intellettuali torneranno, sarà tutto diverso, essi non venderanno più le penne come si racconta, erano indicibili orrori, facevano specie, la specie umana. Loro però torneranno, uscendo dalla tasca, il loro ruolo finalmente lo avranno, riavranno come società, la società tira un sospiro, essa sorride, va in gita sui denti, ridenti, motoveicoli, si va al mare, a Ostia, a Fregene, tutte le mamme ai balconi coi bimbi, ridete, nel mentre la primavera guariscono per sempre dalla rinite. Altrimenti dopo gli va in crack l'agenda, per allora sbagliano tasto, niente gita. Essi vorrebbero tornare alla ribalta con una invincibile rivalsa e si risarciscono, o il sole arride loro, vogliono riaversi e fare la vendetta delle ingiustizie subite, durante ciò interpretare la voce del popolo anche in sua assenza. Quadro, quadro, esclamano, c'è un attimo da aspettare che torni il tecnico, poi accadrà. Questo documentario è di grande interesse. Vedono un documentario sugli assiri. Spiega come manufacevano i manufatti. Andavano svelti anche sui diritti umani. C'era una superficialità, morivano come le mosche. C'era una superficialità, un tempo, insomma, questi assiri. Insomma, insomma. Cioè, si sarebbe da sarebbe da fargli fare tutto quanto un discorso sull'abbassamento del vocabolario, diciamo così. Cioè la parola, che è un abbassamento per poter, secondo me, proprio innalzare la parte di indicare la parte di critica e di ironia, altrimenti non uscirebbe in maniera così potente la cosa. E ci sono stati anche un paio, volutamente, di errori voluti. Questa qui è l'idea del glitch che dicevo all'inizio di tutto quanto. E cioè questi piccoli cortocircuiti nello sbaglio del tempo verbale, nell'errore del tempo verbale, che ti porta a centrare ancora di più, a focalizzarti ancora di più su quello che stai dicendo, proprio perché c'è l'errore, e l'errore quindi fa parte del testo, diventa parte integrale del testo. No, più che altro sì, questa cosa del linguaggio, che di nuovo nei testi in prosa tendi comunque a tenere più basso, proprio per accentuare l'idea del cortocircuito interno per quello che stai scrivendo, stai dicendo, cioè quindi una scelta di campo voluta, totalmente una scelta di campo. Stavo cercando anche un testo, adesso non lo trovo, in cui appunto, a proposito del discorso, è stato bombardato il discorso e a Roma costruiscono una casa, la casa del discorso, come quando Veltroni ha fatto la casa della poesia, la casa della letteratura, la casa del jazz. Allora, da una parte c'è sicuramente, e questo in qualche maniera va a legarsi ai discorsi che negli anni 70 si facevano su un certo tipo di poesia che entra nella banalità del quotidiano, e quindi anche un discorso sul lessico. Dall'altro c'è un tentativo di assottigliarlo, questo quotidiano, fino a lasciarlo ironizzare su se stesso. E così anche le nostre attitudini nei confronti del quotidiano, quindi avete ascoltato anche, insomma, l'uso delle frasi fatte, eccetera. Poi c'è un ulteriore livello, non so se è ulteriore nel senso che va all'indietro o dove, comunque vediamo, esatto, che ha a che fare con, questo si coglie magari forse meno in oggettistica in altri libri, con la indecidibilità del fatto se una espressione testuale sia ironica o no, cioè se il gioco sia sulla banalità del bene della nostra quotidianità o sia sulla o in realtà sia un discorso sulla quotidianità stessa, che parla di sé. Quindi è una specie di ironia che non sa se è tale o non è ironia, è discorso frontale, perché l'ironia è dire una cosa per intendere il suo contrario. E questo, per esempio, elenco sempre due testi in questo senso, non miei, che sono cinque testi, tra cui Gli alberi più uno di Michele Zaffarano, pubblicato da Bengue Series nel 2013, e Remarque, tradotto anche questo da Bengue Series, che è Osservazioni di Nathalie Cantin, tradotto da Michele Zaffarano. Dove appunto che è uscito per nel 1997, se non sbaglio, in Francia, è stato tradotto poi successivamente, diciamo, parecchi anni dopo, per Bengue Series, appunto, in Italia. E in questi due testi il discorso lo annotava per Nathalie Cantin Luigi Magno, francesista molto molto bravo, in una presentazione di cui trovate l'audio in rete, e invece lo notava Vincenzo Stuni sulla scrittura di Michele Zaffarano. La limpidezza assoluta del dettato rende poco comprensibile se si stia effettivamente camminando su un crinale che vira all'ironia vera e propria, per cui si sta scherzando su ciò di cui si parla, oppure se ciò di cui si parla sia effettivamente come una sorta di grande e limpidissimo ritratto del reale. E questo, se ci pensiamo, non è in realtà un portato alieno alla tradizione del Novecento, anche non d'avanguardia. Pensiamo alla scrittura di Robert Walser, pensiamo alla limpidezza impressionante di queste opere, che sono sempre sul crinale per farci sorridere, ma non sappiamo perché stiamo esattamente sorridendo, perché in realtà questa sua ingenuità potrebbe essere una falsa ingenuità. E questa indecidibilità in fondo fa un lavoro molto interessante, secondo me, in letteratura, che solitamente è poco osservato da chi vuole appunto in maniera molto formalmente radicale costringere un autore o da una parte o dall'altra, cioè o il grande ironista o il realista stretto. Adesso non so se ho risposto alla tua domanda oppure no. Perché, cioè, secondo me hai risposto precisamente. Proprio questa indecidibilità, diciamo così, di posizione crea comunque la forza, scusate la parolaccia, esplosiva del testo o dei testi che sono contenuti in oggettistica. A mio avviso, proprio il fatto che non si può sapere, non in tutti si intende, non si può comunque sapere con precisione se si sta abbassando il linguaggio per ottenere un effetto ironico o se in realtà è la limpidezza del reale che sta entrando nel discorso. E quindi, e questa è una cosa che secondo me crea ancora di più la potenza del libro. Nient'altro. E adesso direi che il pubblico degli scrittori deve, ovviamente, deve. Prego. Vabbè, fra poco sarà una Delphi che sta traducendo Giosi Drago. No, invece la butto in una battuta, potremmo dire che è una versione contemporanea degli epigrammi di Giovenale. Se ci sono altre domande o insulti, siamo qua. No, io sono qui, no. Insulti a me, domande a loro. Rimarranno sul crinale della, ecco, punto della tra. C'è tra. Qualcuno che diteci, no, gli facciamo leggere un'altra cosa. Che ora abbiamo fatto? Vabbè, dai, 7:20, un'oretta abbiamo fatto, dai, leggici un'altra cosa. Facciamo o tanto chiacchierate con lui. Sì, infatti, informalmente qui. Siamo qui. Allora, perché il libro è a pagina 116. Questo è un libro, tra l'altro, che era praticamente completato forse 8 anni fa. Ho iniziato a scrivere nel 2013, ma c'è stato un editore di cui non farò il nome che me l'ha tenuto fermo per una quantità di tempo. Io lo volevo già dare a Tic. E poi mi sono stufato e l'ho ovviamente giustamente credo dato al migliore editore che c'è per queste cose, che è appunto Tic. Per cui questo è un testo che io sento un po' remoto, ma insomma ve lo leggo. Fidarsi. Mi fido delle persone sbaglio, non dovrei, fanno delle cose orribili, sono talvolta orribili, non mi fido, non dovrei almeno, ma mi fido delle etichette, quello che c'è scritto, il contenuto, gli ingredienti, le percentuali, vi si nota uno scrupolo e si leggono dei numeri, conta, ci si può fidare, le etichette non sono persone, mi fido, non mi fido dei politici, non ci sono i contenuti, non ci sono i numeri, se non ci sono i numeri si rimane di stucco, uno si gira, resta di stucco. Non ci si dovrebbe fidare, non fidarsi dei politici è qualunquismo, anche fidarsi è qualunquismo. Non mi fido dei qualunquismi, fanno delle cose orribili, non sai. Mi fido della metropolitana, i cartelli dicono che stai, dove stai andando, dove sei, sbagliano sul futuro, ma non sempre, e sempre in senso temporale, non spaziale. Che vadano in alcuni luoghi e non in altri, è certo, tutto il resto no, non c'è da fidarsi. Meglio non dare appuntamenti, anche perché non c'è da fidarsi delle persone. Come fai a dare appuntamento se non ti fidi dei dottori? Ci si può fidare, perché hanno la segretaria, finché hanno la segretaria. Così se l'appuntamento salta ti avvisano, la segretaria ti telefona per tempo, si scusa, ha tutta una cerimonia per queste cose, cerimoniosa. Poi se l'appuntamento invece è confermato e tu vai in visita, allora no, cambia tutto. Una volta che entri devi smettere di fidarti. Dei medici, dai medici può succedere di tutto, con o senza barzelletta intorno, è pieno di barzellette intorno, su di loro ce n'è un migliaio, tuttavia c'è poco da ridere, se il medico sbaglia tutto e tu peggiori, lui non ti telefona, non ti fa nemmeno telefonare da altri, si scorda, sembra, anche della memoria non c'è da fidarsi, non solo quella dei medici è fallibilissima, ma i malati pure, i pazienti dimenticano, a questo serve la malattia, come promemoria, a meno che non si trasformi in morte, perché allora non serve più a niente e non serve più niente, non manca niente, uno ha tutto quello che gli serve, niente. Poi pensano a tutti gli altri, fanno loro le telefonate, continuano i discorsi, i loro e i tuoi, ti mettono le parole in bocca, ti legano la testa, ti abbandoni, ti fidi. Quando uno è morto si lascia trasportare. Gli altri pensano ai vari giri, si prendono le incombenze, ma non c'è da fidarsi di loro, lo dicevo, nemmeno della morte allora, non c'è da fidarsi della morte. Perché l'ho scritto parecchio tempo fa. Sì. No, certo. No, però cioè, è una. Sì, è un fatto assolutamente soggettivo e personale. Ho aggiunto una nota personale. Che, no, perché a me suona. In realtà ha molte attinenze anche con quello che hai detto prima. Però, ne leggo soltanto un altro che è brevissimo, se lo ritrovo, però. Ecco. A proposito sempre degli intellettuali, ma sono due righe. Tempo, e con questo ci salutiamo. Facevano le polemiche letterarie e si odiavano nei caffè. Adesso hanno cambiato gestione. Grazie, grazie a Marco e grazie a voi. Bene. Poi grazie anche alla libreria che ci ha ospitato. E cosa possiamo anche dire? Se, diciamo la solita cosa. Se volete acquistare il libro è in cassa e l'autore è qui per firmare le copie. Se volete chiacchierare un po', è qua. Siamo qua. Fino dai. A... No, sì, tra un po' poi scappo. Non moltissimo, però c'è. Quindi. Ci sono. Bene.